24 mattino. Wow, wow, bella. Sono uscito dalla melma. Da una stalla a una stella. Compro una villa alla mamma. Bisogna sapere governare l'immigrazione. L'immigrazione non può essere governata dagli scafisti o dal caso, deve essere governata da flussi regolari che danno dignità e certezza di accoglienza, ma nello stesso tempo non si può cedere a parole di odio, di violenza, di razzismo, che sono parole che possono fare molto male a tutta la società, perché oggi può toccare agli immigrati, domani può toccare a dei nemici politici o a persone diverse. Occhio dancing in giro come gipsy, turista in mezzo ai prezzi, il fine giustifica i mezzi. Il fatto che ci siano milioni di bambini che nascono, crescono, studiano qui, sono tifosi della Juventus o della Roma, ma sono apolidi, nel senso che non sono cittadini italiani, è un errore enorme, perché queste persone a cui noi neghiamo la loro identità di cittadini italiani andranno alla ricerca di un'altra identità. Non saluti manco Rambo. Allora, erano D'Alema e Del Rio sullo Ius Soli. La notizia di oggi è il cambio di marcia o la rottura dentro il governo. Il giorno prima qualcuno aveva gettato la spugna, segnatamente la maggioranza, Gentiloni. Oggi due ministri pesanti dicono no, cambiamo rotta, riproviamo a votarlo, e si tratta di Del Rio, che avete sentito, e del ministro Orlando. Ma per dare la fotografia di una notizia collegata di cronaca apparentemente minore, però molto affine a quello che stiamo raccontando, io parto dal Messaggero oggi. Guerriglia sui migrati tra Casa Pound e la sinistra. Alta tensione al Tiburtino Terzo. In agosto la rissa al centro accoglienza, rinviato il consiglio straordinario sul futuro della struttura per i rifugiati. Si tratta uno dei tanti centri ovviamente contestati, e su questo il Messaggero, un pezzo siglato, quindi non posso dirvi chi è l'autore perché non conosco questo S-Can, la firma, ma c'è lo scontro. Per terra a fine serata si contano un casco, l'asta di una bandiera rossa usata come clava, un parallelepipedo d'acciaio puntito ai lati tirato durante gli scontri. C'è anche un ferito alla testa e ci saranno dei denunciati appena i filmati della Digos, scrive il Messaggero, metteranno a fuoco i protagonisti di questo pomeriggio di tensione. Bot Tiburtino Terzo, periferia est della capitale. Gli antifascisti dei centri sociali all'assalto degli estremisti di Casa Pound, rossi contro neri e viceversa. Un minuto abbondante di macelleria messicana. Prima dell'intervento delle forze dell'ordine in questo centro anziani in via del Badile si doveva celebrare il consiglio straordinario del quarto municipio, richiesto dai fascisti del terzo millennio per chiedere la chiusura dell'ormai noto presidio umanitario della Croce Rossa in via del Frantoio. Questo è il clima, ed è un clima caldo, rovente, agitato. Allora, sullo Ius Soli, apertura di tutti i giornali di destra e di sinistra, ieri abbiamo, perché qualcuno ci dice, ma com'è che avete letto tanto Libero, il giornale, la Verità? È perché si sentono i diversi giornali durante la rassegna, per dare una rassegna vera, calda, si sentono i temi controversiali, si sentono le voci più diverse. Oggi però è la voce della sinistra che è saltata su questo marcia indietro, e quindi Repubblica spara l'apertura. Ius Soli, il PD si divide, Del Rio, rinvio della legge è un atto di paura. La politica senza autonomia, il fondo di Ezio Mauro che bacchetta. Bacchetta la maggioranza a cui Repubblica si sente più affine. Dunque la legge sullo Ius Soli non si farà, e così arriva a compimento per questa fase quello spostamento di opinione pubblica che lega ormai immigrazione, paura e sicurezza, coltivato e concimato da mesi di predicazione dei partiti della ruspa, senza che la sinistra sapesse opporre una visione diversa del fenomeno, basata sulla realtà dei fatti, mentre il centro rinuncia alla tradizione italiana della solidarietà cristiana e i 5 Stelle rivelano più che mai la loro natura di ibrido politico, con una postura di sinistra e un'anima di destra. Bella questa cosa, eh? Postura di sinistra e anima di destra. Era molto interessante per chi di voi, so che siete lettori cogitanti, quindi mi piace darvi i fermenti, il saggio di Ilvo Diamanti, o l'articolessa di Ilvo Diamanti, che spiegava come è salita la paura in termini di opinione pubblica fra i cittadini. Solo in due casi, l'indice di sicurezza, ricorda concetto vecchio a pagina 3 su Repubblica, solo in due casi l'indice di insicurezza suscitato dagli immigrati, oggi il 46% dei cittadini si sente in pericolo, è stato più alto di oggi, pensate, nell'autunno del 2007 e nel 1999. Guarda caso, erano due vigilie elettorali. Non bisogna aggiungere nulla a questo. Ecco perché la tensione sale. Mentre la leva ringhiava, il governo Prodi era appeso al filo, sembra lo stesso scenario, tutta la destra si aggregò e si concentrò sulla paura. Erano altri tempi, ma ci sono i corsi e i ricorsi. L'asse però fra Quirinale e Vaticano, attenzione, sempre Repubblica, lo Papa, blinda la linea Gentiloni-Minniti. E quindi sulla linea di sospende lo Ius Soli ci sarebbe una convergenza, questo ce lo racconta lo Papa Paolo Rodari, il vaticanista del quotidiano di Piazza Indipendenza, ci sarebbe una convergenza di intenti di Vaticano e del ministro dell'interno. E poi le leggi da non tradire, perché l'altra accusa di Repubblica è state abbandonando tutte le leggi, ora fra un attimo leggo un retroscena della Meli sul Corriere che spiega perché. Anche il fine vita è sotto scacco, al Senato 3.000 emendamenti, quindi tutte le cosiddette leggi di sinistra, che come abbiamo spiegato ieri sono state pensate per fare fuochi d'artificio e andare al voto con le bandiere al vento, sono impantanate nel Vietnam del Senato, fra cui quella ovviamente di cui abbiamo parlato sul reato di apologia del fascismo, la legge Fiano, e Fiano fa qualche sforzo per provare a recuperare terreno dopo le polemiche e vi leggo il memorabile titolo che presenta una sua intervista oggi su Il Tempo. Il titolo bello è Retromarcia su Roma. Dopo le critiche l'autore della legge contro i fascisti ci ripensa. La scritta Dux sull'obelisco resta, chi vende gadget non va in cella, neanche per il saluto romano. E questo è ciò che accade sulle altre leggi, ma dobbiamo dare un'occhiata a retroscena di Maria Teresa Meli, che anche oggi spiega di più. Per i democratici si profila uno spettro, non riuscire ad approvare neppure una delle loro leggi simbolo. E attenzione, questo è ancora più importante, questa è la spiegazione di tutto. I sondaggi l'ultima ora a Palazzo Chigi, con lo Ius Soli il partito perderebbe 2 punti. Scrive Maria Teresa Meli, lo Ius Soli non diventerà legge in questa legislatura, a meno di un blitz di cui si stanno studiando i contorni e che ovviamente prevede la fiducia, subito dopo l'approvazione della manovra, o più verosimilmente della legge di bilancio. Ma ci sono troppi problemi nella maggioranza e anche nel PD, problemi che si sono amplificati da quando i sondaggi stimano in 1,5, addirittura 2, la flessione che il partito avrebbe in caso mandasse in porto la legge. Maria Teresa Meli, sul Corriere della Sera, un lungo retroscena, io ve lo accenno, ma il cuore di quello che racconto è questo. Allora, su Mastella, se qualcuno si vuole esercitare, l'articolessa raccontata, una pagina intera, pagina 27 di Francesco Merlo, ci dà il sapore, racconta i tempi del popolo arancione, perché Mastella aveva scelto l'arancione, i tempi dell'assedio alla villa dove c'erano i domiciliari Sandra Mastella e Clemente, erano i tempi in cui arrivò questo benedetto ordine di custodia cautelare per Sandra Mastella, accusata di una pressione, pensate, su Bassolino per nominare un primario, e dopo 9 anni la sentenza di nulla di fatto. E dice Merlo, questo è divertente, che Mastella è la chiave della politica, della vecchia politica, e torna. Mastella è l'arcimeridionale fondatore di sette partiti, la politica dello zero virgola, l'interdizione, la rilevanza dell'irrilevante. Fu ministro con il 2%, prima con la destra, poi con la sinistra, perché il proporzionale libera le mani e Mastella, il pacioso professionista dell'intrallazzo innocente. Ed è così bravo che Beppe Grillo, quando vide il suo Di Maio che stava occupando le televisioni, gridò in comizio: «Attenzione, diventerà come Mastella!» E infatti Di Maio è il mastellese in 5 stelle e si mise a pasticciare con le mail mentre si sporcava con le nomine della Raggi. E come Mastella sbagliava i congiuntivi e dava la colpa all'ufficio stampa e rilanciava il morbido valore della pacca sulla spalla. C'è tuttavia una prima differenza fra Mastella e i mastelloidi: la coscienza e l'ironia. Bene, e abbiamo tante cose da leggere. Travaglio scrive sul Fatto, ve lo segnalo soltanto, perché secondo lui era giusta quel processo, non è necessario che sia sicura la colpevolezza, è importante che ci siano degli indizi su cui partire, e gli indizi secondo Travaglio c'erano. Il mondo è bello perché è vario, ci fermiamo. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. '24 mattino. Ampedi che versito! Te ci hanno mai cliccato sopra? Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manca solo la parola. Ma chi t'ha scolpito, Michelangelo? È immenso il grande Carlo Verdone, 24 mattino, Luca Telese, sono qui e partiamo dal Gallo Cedrone perché c'è una norma contro i bulli del dressing. Sì, perché segnatevi questo nome, Sabina Fortunati. Sabina guida l'Istituto Da Vinci Belluzzi di Rimini, gli studenti sono sottoposti alla sua nuova circolare. Ecco perché da preside, scrive il Corriere della Sera intervistandola oggi a pagina 22, ecco perché da preside vieto i jeans con i buchi. No a pantaloni corti, ai jeans con i buchi, alle canotte lacere, alle magliette stracciate, ai cappellini, alle ciabatte. A scuola, dice la preside, bisogna presentarsi con un abbigliamento consono. E non si tratta di una bigotta con i doppi vetri, è una ragazza sorridente che, devo dire, difende con una certa grinta la sua circolare. Lei è una preside vecchio stampo, le chiede Valentina Santarpia, la professoressa Sabrina Fortunati? No, ma che ride lei? Ma decoro e rispetto vanno recuperati. Forse abbiamo allargato le maglie un po' troppo e invece gli studenti devono ricordare che la scuola è un'istituzione pubblica dove si trasmettono valori e si educa ai principi. Lei a scuola vuole dare delle dritte estetiche? No, assolutamente, non ingeriamo nella vita dei privati, né facciamo una questione estetica e neanche pretendiamo di essere un luogo sacro dove si entra solo a capo coperto, ma i ragazzi devono capire che ogni luogo comporta un atteggiamento adatto. Ma com'è nata l'esigenza del regolamento? Ma lei lo sa come venivano? Dalle segnalazioni dei docenti soprattutto, ma anche a me è capitato di vedere nei corridoi studenti con jeans a cui mancavano interi pezzi, seminudi, e mi è venuto spontaneo chiedere loro: scusate, li avete pagati con i soldi interi o bucati? Bene, godibile questa intervista e lancio un tema, ricordatevi più tardi le telefonate 800 24 00 24 349 238 6666. È giusto mettere un po' di riga ai ragazzi in classe? Non è un tema campato per aria nel giorno in cui arrivano notizie di baby stupratori, di un ragazzo, storia terrificante, che ammazza a colpi di pietra vicino all'Euca la sua fidanzata e la nasconde sotto un mucchio di sassi. Ma parliamo dell'Europa, imprescindibile il Sole 24 Ore di oggi, quello che spiega meglio, ma non lo dico perché il vino della casa è buono, ma per davvero la grande notizia a livello internazionale, la proposta di Juncker che rilancia, ah sì, ci vogliono questi due prodotti da Brianino, quelli che raccontavano la nuova Europa che ancora non c'è, quindi è un po' un film di fantascienza, sì. Allora, un ministro delle finanze dell'Unione Europea vuole un salto di qualità, Juncker. L'ESM diventi un fondo monetario, reciprocità nel commercio, il discorso sullo Stato e l'Unione. Sui migranti l'Italia ha salvato il nostro onore, dateci soldi però, non è solo i ringraziamenti. La Turchia non entrerà in Europa, quindi tante cose diverse e il Sole è carrozzato questa notizia con un commento pesante, quello di Carlo Calenda, che dice... contento se Bruxelles adotta il modello italiano. E poi l'editoriale di Adriana Cerretelli, una spinta alla politica industriale. Sì, perché la dottrina Juncker, il Sole la definisce così, è un colpo di marcia anche per l'economia. Se ci sarà o meno una nuova Europa più unita, forte e consapevole di sé al proprio interno, più pesante e credibile sulla scelta globale, lo sapremo solo fra qualche anno. Di sicuro, scrive la Cerretelli sul Sole di oggi, l'attuale movimento politico ed economico soffia vento nelle sue vele, tanto che ieri a Strasburgo, nel discorso sullo Stato dell'Unione, Jean-Claude Juncker ne ha tracciato un possibile identikit, corroborandolo con una tabella di marcia a tutto campo per renderla più solida, efficiente e al passo con i tempi. È sicuramente una grande rottura, abbiamo sempre detto che le politiche divise dell'Unione erano il segno della differenza e della fragilità di questa istituzione, un gigante dai piedi d'argilla, ed ecco Juncker. Pagina 3, un altro articolo, quello dei due corrispondenti da Bruxelles, Beda Romano e Gianni Trovati, Juncker favorevole ad un fondo monetario europeo che però non sia solo un guardiano di bilanci. Insomma, la frase clou del discorso, la disoccupazione è ai minimi, purtroppo per noi, dico io, in Europa, non in Italia, da 9 anni, finora durante questo mandato sono stati creati quasi 8 milioni di posti di lavoro. La Brexit sarà un momento molto triste nella nostra storia, dice Juncker, ne saremo sempre dispiaciuti e credo che anche voi britannici la rimpiangerete presto. E insomma, è tutto da leggere, sono due paginate, ma questo cambio di rotta, questa accelerazione è sicuramente la notizia del giorno. Allora, i jeans strappati nel costume, Juncker nell'Europa, la politica nostrana. Io veramente non ci capisco più niente. C'è una nuova svolta di Pisapia, ce la racconta Repubblica, pagina 7. Cioè, avevano appena ieri deciso unitariamente tutti quelli della sinistra di unirsi come un solo uomo intorno a Pisapia e adesso hanno cambiato di nuovo idea. Bellissimo, apertura, Giovanna Casadio, dubbi di Pisapia su MDP, questa volta è lui che ha dei dubbi, Bersani non può dire no ad un patto con il PD. E quasi come se i giornali fossero un ipertesto che consente di rispondere, Bersani risponde dettando la sua linea e spiegando perché lui ha dei dubbi sul Partito Democratico. E quindi è tutto un su e giù, è tutto un cambia e gira. Ovviamente il Corriere della Sera ci racconta di una nuova inedita coppia della letteratura, ma forse anche della politica, perché sapete che Tremonti e Sgarbi hanno scritto un libro, un manifesto sul nuovo rinascimento italiano, ma potrebbero persino candidarsi alle elezioni, non si è ancora capito se nazionali o regionali, insieme, e proporre come assessori in Sicilia Chiambretti, insomma un po' di stelle e lampi. Noi illuminati, si legge sul Corriere della Sera, noi illuminati in missione contro il medioevo della rete. Sgarbi e Tremonti presentano il manifesto del Rinascimento. Del Rinascimento triplicheremo, dicono, i voti di Scelta Civica. Scrive il Corriere della Sera: la bellezza salverà il mondo? Lo sosteneva un padre dell'umanesimo come Leon Battista Alberti, e un ideale che connota le pagine di Rinascimento con la cultura non si mangia di Vittorio Sgarbi e di Giulio Tremonti. Chi vuole si legga questo articolo, sono due personaggi che entrambi dotati di personalità, ma che danno anche, come dire, insieme diventano pirotecnici. Allora, l'intervista di Bersani, non l'avevo detto, era sul Corriere a pagina 5 e parliamo di questa zanzara killer. È l'apertura del Messaggero di Roma ed è una cosa così grave che si stoppano, si fermano le trasfusioni. Zanzara tigre, questo è il titolo proprio del quotidiano diretto, quotidiano romano. Zanzara tigre stoppa le trasfusioni. Roma, bloccate le donazioni di sangue per 1,2 milioni di persone dopo i contagi. Il Ministero della Sanità, ritardi del Campidoglio per le disinfestazioni. 8 quartieri a rischio. Stiamo parlando di uno scenario quasi di guerra. E intervista del professor Massimo Andreoni, responsabile dell'unità operativa complessa di malattie infettive del Policlinico di Tor Vergata. L'epidemia va avanti, quindi una bruttissima notizia, ma con l'inverno finirà. L'infettivologo: potrebbero esserci centinaia di contagiati. L'intervista è di Marco Ventura. Non ci sono farmaci per curarla, ma non è una patologia mortale. No, mi viene un sorriso perché a volte i tecnici hanno questa ferocia di dirti le cose in modo molto brutale. Allarme contagio, una doppia pagina, 4 e 5, chi vuole il Messaggero, ma è su tutti i giornali perché è una delle notizie pericolose del giorno ed è anche forse uno dei simboli di quello che sta accadendo. La notizia più bella e divertente è quella dei parcheggi rosa. Questo geniale assessore di Bergamo che ha deciso di limitare etnicamente, razzialmente, sessualmente i parcheggi della sua città, ci si esercita in maniera sublime Massimo Gramellini, ma noi ci fermiamo solo un secondo e poi torno alla lettura. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Mattino. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare gli interessi dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia e il voto. Cose d'altri tempi queste. Ah sì, dopo passata, sormontata. Io vado al comizio, prometto. Prometta. E prometta fogne, strade, ponti. E noi ci pappiamo gli appalti. E vabbè, questa è la notizia del giorno. Questa è la notizia da rabbia in macchina, aprire i finestrini, ululare. Perché come la commedia all'italiana, ormai unica maestra per capire il codice italiano, ci raccontava con questo memorabile Totò, è arrivata la regalia elettorale. Sicilia, sto leggendo da Repubblica, pagina 6, 80 euro in più ai 22.000 forestali. A poche settimane dal voto, ci racconta Antonio Fraschilla, l'elargizione generosa del governatore Crocetta, che nel frattempo colloca gli uomini del suo movimento e dai, vai, il megafono ai vertici di enti e aziende regionali. Si ribella Leoluca Orlando. Non si fa così la campagna elettorale. Ma ci ribelliamo tutti! 80 euro a un mese dal voto! Questa è roba da catene! La regione siciliana, trasformata come una grande comitato elettorale in vista del voto di novembre. Il governatore Rosario Crocetta e la sua giunta, ci racconta Antonio Fraschilla, non si stanno risparmiando in nulla. In arrivo l'aumento mensile per i 22.000 forestali dell'isola, che da soli sono quanto i forestali di tutto il resto d'Italia! Ma siamo alla follia! E ancora il governatore, per rafforzare il suo movimento, che presenterà una lista al voto, il megafono, sta nominando tutti i suoi fedelissimi, bravo, dico io, alla guida degli enti e delle SPA regionali, facendo indignare persino l'alleato Leuco Orlando, incarichi e contributi con vista sulle urne, come quelli dell'assessore al turismo, Anthony Barbagallo, che su 103 sagre e concertini finanziati da lui direttamente, ha pensato bene di sostenere 50 eventi in provincia di Catania. Bravo, guarda caso il suo collegio elettorale, una regione trattata come una vacca da mungere, dice il candidato governatore della sinistra Claudio Fava, mentre Forza Italia, che in passato nell'isola non aveva certo brillato, annuncia un esposto in procura per voto di scambio. Voto di scambio! Crocetta e la sua giunta però non hanno intenzione di fermarsi. Ieri con i sindacati è stata siglata l'intesa per dare questi soldi. I fondi che servono costeranno 250 milioni di euro l'anno e paghiamo noi. Risanatore è una cippa, caro Crocetta, scusate, ma veramente alle volte bisogna davvero preoccuparsi quando accadono queste cose. Allora, vi avevo detto il corsivo sul pacco di Pontida, Massimo Gramellini, oggi una penna intinta nella luce, veramente. Il sindaco leghista di Pontida è un sensibilone, rilascerà dei permessi atti alle donne incinte per parcheggiare l'auto in spazi riservati, le strisce rosa, onde evitare la ressa. Non avete idea di quanti automobiliste incinte scorrazzino a tutte le ore lungo i viali di Pontida. Ha riservato il beneficio alle sole donne europee ed eterosessuali. Sottolineiamo con sorprendente segno di apertura il fatto che non si sia limitato lo spazio solo alle nate nella provincia di Bergamo, scrive Gramellini. Ma mentre è piuttosto chiaro che per negare il permesso a una gestante americana o ugandese basterà chiederle il passaporto, rimangono abbastanza oscuri i criteri con cui il sindaco Carozzi pensa di trovare snidare un'eventuale lesbica che fosse così sfrontata da presentarsi al settimo mese di gravidanza nel suo ufficio per richiedere l'agognato tagliando. Verrà sottoposta a esami clinici? Verrà visitata da uno staff di psicanalisti in camice verde? Verrà invitata a fare il gioco della bottiglia con tutti i maschi che lavorano in comune? Il Carozzi, scrive Gramellini, uomo saggio e avveduto, ha scritto sul regolamento: per donna si intende un individuo umano di sesso femminile. No, ma è troppo bello, è tutto vero. Ma la precisazione lo cautela solo dalle transessuali, le quali però è difficile che aspettino un bambino. È questione delicata su cui il sindaco non mancherà di aprire un dibattito fra i suoi sostenitori, divisi fra l'ala moderata che vorrebbe rifiutare il parcheggio solo a una lesbica di colore e l'ala oltranzista che preferirebbe passarle sopra con la macchina. Vai Gramellini, caldo oggi! Andiamo con il Passenger, perché c'è molto da raccontare. Il devoto Oli si torna al vocabolario. Pensate, sono 50 anni del dizionario perfetto e, come deve scrivere Libero, nato da un'idea di Mussolini. E vabbè, il devoto Oli è nato durante il regime fascista, ma questa è l'idea della buon'anima. Il linguista che lo scrisse voleva un consiglio superiore all'italiano. Oggi l'autorevole testo si presenta con 75.000 voci e 1.500 neologismi. E attenzione, chi ci entra in questi neologismi? Ciaone proprio. Sì, perché ciaone è ormai slang della politica, sapete, fu portato alla gloria dal deputato Carbone ed è diventato ora un lemma del nuovo vocabolario. Ce lo spiega Daniele Abbiati, in questo caso sul giornale, che spiega tutte le parole che entrano, troppe però quelle inglesi, da Brexit a post-truth, post-verità. La musica nel ventennio, quanto fascismo nelle nostre cronache. Così l'Italia di Mussolini usava le canzonette Luca Pavanel sul giornale. Una targa per la bimba uccisa dagli antifascisti. Riesplode la polemica, il caso Gerzi, e siamo sul secolo XIX. Mario De Fazio ci racconta a Savona una giunta spaccata. Però raccontiamo anche qualche nefandezza. Arrivano oggi le motivazioni, e ce lo racconta il Fatto a pagina 14. I giudici a strade di Brescia, ecco le prove sui neofascisti condannati, a partire da quel professor Maggi che mentì sull'alibi mentre lavorava per i servizi segreti italiani e lavò la piazza dopo la strage. Il libro di Vittorio Feltri, con un sottotitolo cattivistico, una grande recensione di Selvaggia Lucarelli. Più che l'ordine dei giornalisti, per Vittorio serve la badante. Molto cattivista questo titolo della Lucarelli, ma anche la frase di Feltri che lo produce: un albanese ti riga l'auto, ti togliamo su quei negri pallidi. È un libro bello, un libro su Don Gallo, è anniversario della sua morte, esce un libro di Loris Mazzetti, Il Don Ribelle dalla parte degli ultimi, la vera chiesa, diceva Don Gallo, non ha né lussi né tabù. Loris Mazzetti sul Fatto, pagina 17, sì, leggete, leggete! Questo è meraviglioso, intervista di Azzurra Noemi Barbuto su Libero a una giovane prostituta che, interrogata su come è iniziato a lavorare, ha detto: era una vocazione, già a 13 anni sognavo di fare la prostituta, escort vocazionale, il titolo di Libero. Yuki dal Giappone inseguendo un sogno porno. E la nuova squadra azzurra, Silvio cambia tutto, vedrete delle facce nuove. Silvio sceglie le nuove donne da mandare in TV e sono raccontate da Libero a pagina 9 Gabriella Giammanco, Annalisa Tartaglione, Elena Donazzano, un assessore regionale veneto, Eleonora Mosco, assessore del commercio a Padova, Elisa Serafini, assessore al comune di Genova. La nuova squadra di Silvio, le donne che lo porteranno a vincere in TV, secondo il racconto e il retroscena di Salvatore Dama. Allora ci fermiamo ancora una volta e attenzione che arrivano i cani gatti, arriva il gattone, arriva Oscar Giannino, vai!